Rassegna eventi. E eccoci qua con la consueta rassegna degli eventi settimanali negli spazi liberati della nostra città. Partiamo da mercoledì 13 febbraio al CSA Next Emerson, concerto Urano Hamre. Alle ore 21:30 ci dicono: siamo lieti di ospitare nel foyer dell'Emerson Urano e Hamre, un duo post-noise, nerdcore, rock dalla Danimarca. Nerdcore, bellissimo. Il tutto portato fino al limite. Solo al CSA Next Emerson alle 21:30, venite puntuali, che è un giorno infrasettimanale, abbiamo da alzarci la mattina, ci dicono giustamente, quindi andiamo presto per goderci al massimo e far vedere. Esatto. Giovedì 14 febbraio all'occupazione viale Corsi 81, lo spazio sociale C81 Corsi 81 riapre tutti i giovedì dalle 16 alle 21, ci troverete aperti per passare insieme tanti pomeriggi all'insieme della socialità e del divertimento con ciclo officina, serigrafia, biblioteca, tutte le sere aperitivo a prezzi popolari. Sempre giovedì 14 al CSA, al Centro Popolare Autogestito Firenze Sud, le organizzazioni rivoluzionarie venezuelane di fronte ai sabotaggi, alla destabilizzazione economica, alla nuova aggressione imperialista direttamente al Venezuela, diretta e collegamento con i comitati popolari delle organizzazioni bolivariane. Incontro quindi con i rappresentanti di movimento popolari in videoconferenza all'Ateneo Popolare de Caracas. Intervengono Antonio Gonzalez, cooperativa San Agustín Conviva, Luis Salas Portale, questo è un nome che non riesco a leggere, e Liliana Bultrago, e infine Lenin Bray. Lenin. Venerdì 15, contro la vendita di mondeggi, c'è nel sostegno di Mondeggi Bene Comune. Si ricorda che la prenotazione è obbligatoria, preferibilmente tramite WhatsApp, ai numeri che trovate sul volantino. Menù molto assortito, che buonissimo, vi invitiamo a cercare, sempre chiaramente buonissimo e genuino. La cena sarà l'occasione per presentare pubblicamente il nuovo comitato Amici di Mondeggi, costituito da persone fisiche e giuridiche, che si occupano appunto, come ahimè sappiamo, dell'imminente svendita di Mondeggi Bene Comune. Sempre venerdì alle ore 23 ritorna il rock and roll al CPA. Siamo molto felici di ospitare due band che suoneranno per la prima volta sul nostro palco: The Partners in Crime e i The Loba Loba Lovers, che vi faranno ballare fino a notte fonda con il loro sound, con il rockabilly, il surf, lo swing, tutto questo al CPA. Sabato 16 febbraio invece non a Firenze, ma a Roma, c'è la manifestazione nazionale nella giornata internazionale della mobilitazione per la liberazione di Ocalan, grazie. E tutti i prigionieri e prigioniere politiche curde. Quindi difendiamo il Rojava per la libertà e la pace in Medio Oriente. Il pullman da Firenze, potete trovare i numeri da chiamare per prenotare il posto sul bus. Dove lo potete trovare? Su Facebook, sì. Corteo Libertà per Ocalan e per tutti i prigionieri politici, cercate quindi. Sempre questa sabato, chiave. Vai, scusa. Vai, scusa. Sempre sabato al CSA Next Emerson, Cumbia Pal Pueblo. Ore 20:30, cena caribigna con patacones, repas, gallo pinto, i mas, prenotazione obbligatoria et assemblea @ CSA Next Emerson, csaxemerson.it. Alle ore 22 vi sarà la proiezione del documentario Io soy la cumbia. Grazie. Alle 23:30 concerto con Mambe, con il Dano Cilango, Mexico, cumbia e global bass. A seguire vi saranno ritmi caldi dello scumbieros, cumbia e salsa. Domenica 17 febbraio e finiamo qui la nostra rassegna degli eventi. Chuck si squirta a polveriera, quindi Paris is burning, quindi abbiamo detto, è stato detto a fuoco alle polveri, quindi una rassegna di cinema dedicato appunto a questa storia. Questo è un film, Paris Burning, dedicato appunto alla nascita della ballroom culture in America, quindi una subcultura underground della cultura LGBTQI. E a seguire workshop di Voguing. E dal pomeriggio a Voguing Party e la cena anche a cura di Marilena Bertonelli. Wow wow wow wow wow. E allora niente, vi lasciamo agli eventi della settimana e poi vi riaggiorneremo lunedì prossimo. Sì. Chiudiamo con sorpresina cumbia. Dai, bravo, bravo, sì, e anche bici. Anche bici. Vai, dai, a seguire. Bye bye. Wombat. Ecco, ecco, arriva l'Emerson, attenti, attenti, arriva l'Emerson, arriva sabato 16 febbraio. CSA Next Emerson presenta Cumbia Pal Pueblo, Mambe y Dani Chilango, Cumbia Global Base. Alle 20:30 la cena, ecco la cena fantastica, menù fantastico, caribegno, patacones, arepas, repollo con mango, salsa di kiwi, salsa di chile e poi gallo pinto con pollo con mango e pigna e cocco. Per i vegani non vi scontenteremo, verdure fantasticamente aromatizzate al sapore di mango e dolci, dolci, e venite a correte, via. E dopo? Ore 22, documentario, Io soy la cumbia, viaggio nelle radici della cumbia. Alle 23, concerto a seguire con DJ Set, Mambe y Dano Chilango. After e post concerto, Los Cumbieros, selezione calda, caliente, demasiado, di cumbia, salsa y más. Dove? In via di Bellagio 15, Firenze. Ricordatevi di prenotare la cena entro mercoledì alle 12:48 mandando una mail. Assemblea @csixemerson.it. Dove? Al CSA Next Emerson. Dove mandi la mail? Vengan, vengan, che noi solo speriamo allegre che se fondan a sete alla rodicia, alla cadera e ad alle onda. Muchacho, vai nella cumbia. Come merda. Questa domenica qua vieni a protestare in bici insieme a noi, ma ben bianco c'hai di meglio da fare. Domenica 24 febbraio, pranzo a sacco presso la polveriera Spazio Comune, per partire alle ore 14:30 per una biciclettata in difesa degli spazi autogestiti. We can jump in the waters. Rassegna eventi.